Una buona sera a Radio Città Fujiko in compagnia di Max Macchia, che vi saluta ovviamente per questo nuovo 451 frammenti sonori. Beh, tra l'altro questa sera in compagnia non dolce, un po' dura come compagnia di Franco Sacchetti, che saluto insomma per quello che sarà insomma un viaggio dentro le musiche improvvisate, improvvisazione. Capirete anche un po' il perché rispetto a quello che sarà il percorso che appunto si creerà qua dentro 451, un percorso che parte dall'Italia, parte dal gruppo di Nuova Consonanza, per arrivare appunto in terre tedesche, anche un po' insospettabili rispetto a quello che è un suono insomma conosciuto come il suono cosmico, quindi come il suono escapico per antonomasia, e anche appunto come immaginario forte, uno dei grandi immaginari del secondo dopoguerra, quello appunto di queste astronavi incredibili, freak o futuriste che prendevano il volo appunto dalla terra di Germania per andare a trovare sì, in termini di fantasia, luoghi immaginari e musicalmente di fatto inventare il futuro, perlomeno quello del rock. E se partiamo da quelle che sono comunque delle sorte di stelle, appunto, sempre per usare le terminologie cosmiche, e beh, sicuramente quella di Karlheinz Stockhausen rimane un punto di riferimento. Buona parte dei cosmici sono stati allievi del grande Karlheinz, ma come non ricordare anche qualcosa che avveniva parallelamente al grande compositore tedesco e che avveniva anche per molti versi soprattutto qua in Italia, cioè l'improvvisazione radicale, un percorso che è stato assolutamente originale, anche molto diverso da quello che si immagina immediatamente come improvvisativo, quindi legato al jazz. No, questa è musica che viene dalle musiche fondamentalmente contemporanee. Sono compositori che elaborano, attraverso poi la lezione di un altro grande che è stato John Cage, un altro punto di riferimento appunto del secondo dopoguerra per quanto riguarda le musiche d'avanguardia, le musiche che diverranno poi Cage con la sua Alea, di fatto già creava il territorio per giovani artisti che da lì agli anni 60 avrebbero creato appunto quella che ora è definita improvvisazione radicale, cioè quindi la composizione istantanea, la composizione creata lì sul momento, musiche che chiaramente hanno un segno politico molto forte, di ovvia, insomma, chiara rottura rispetto a anche addirittura alle prime forme di se vogliamo di quello che si stava diventando accademico, di fatto la neoavanguardia, e non a caso appunto citavo Stockhausen, seppur con tutte le irrequietudini dei grandi compositori legati appunto alla neoavanguardia, quindi Stockhausen sicuramente in Germania. In Italia, come non citare Eberio e Nono, ma si era creato anche un ulteriore modo, perché insomma, poi, tra l'altro questi grandi compositori erano i post-serialistici, quindi continuavano per molti versi, e anche qua il discorso sarebbe lungo, non lo faremo questa sera perché ci porterebbe veramente molto lontano e poi musicalmente siamo su altri lidi, diciamo per molti versi furono continuatori di quella scuola di Vienna, della scuola tonale di Schoenberg, Webern e Berg, che con soprattutto Boulez, altro punto di riferimento del dopoguerra per le musiche d'avanguardia, divenne insomma una forma anche piuttosto importante per le prime esperimenti di tutti, buona parte insomma degli autori che stasera metteremo sono passati da Darmstadt, dove appunto si insegnava tra virgolette il post-serialismo, quello appunto creato in primo luogo da Webern, e altri compositori, magari veramente estranei anche alle forme così di musica colta, provenienti anche da situazioni esterne o marginali appunto a quello che comunque ancora era visto come musica colta, con tutto che un grande come Nono, ma lo stesso Stockhausen volevano rompere con l'Accademia, ma di fatto insomma poi sono diventati anche loro delle sorte di figure legate alle musiche appunto che diventavano di fatto nuova Accademia, o comunque le hanno volute far diventare tali proprio per, come dire, dare anche uno status, no, a giovani rivoluzionari, perlomeno in termini musicali. Poi appunto anche questo sarebbe un discorso che ci porterebbe lontano, non soltanto per quello furono rivoluzionari, ma comunque una generazione appunto che negli anni 60, in questo caso con Evangelisti e conosciutissimo per altri aspetti, ed è quasi veramente paradossale come Ennio Morricone venga soltanto conosciuto, scusate se mi viene da sorridere, però ogni volta che insomma, ho parlato all'estero e con qualcuno di Morricone viene associato appunto alle musiche dolci, una volta mi viene anche detto appunto che in maniera così un italiano piuttosto scorretto, piuttosto formaggioso, no? Quindi a parte la cosa che è abbastanza ridicola in termini proprio sì di aggettivo storpiato tra l'altro, ma comunque è incredibile come e qua appunto anche andiamo fuori dal discorso appunto anche della riconoscibilità accademica di Berio, di Maderna, Nono, Stockhausen, Boulez e appunto poi invece il lavoro di Morricone dentro il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, forse non più che mi sconosciuto, è proprio sconosciuto insomma. Adesso per fortuna sempre tra virgolette vengono ripubblicati i dischi magari con l'etichetta Ennio Morricone, insomma, perché vengano venduti, anche perché sono musiche decisamente radicali, altro che formaggiose appunto, e un gruppo eccezionale che veniva creato da Franco Evangelisti, uno dei grandi eretici anche della neoavanguardia appunto legata ai personaggi di cui vi parlavo prima. Evangelisti sviluppa insieme a Morricone e a Gianfranco Schiaffini e Mario Bertoncini, poi ci saranno varie personalità che si avvicenderanno dentro il gruppo di Nuova Consonanza, Walter Branchi, Antonello Neri, pazzo geniale, artigiano folle come Domenico Guaccero o Guaccero, non ho ancora capito bene dove posizionare l'accento, e che crea da sé delle sorte di circuit band, quindi circuiti di fatto creati da lui, veramente più artigianali del genere, e potremmo insomma dire una sorta di padre del noise più anche creativo. Passerà anche di là un personaggio come Frederick Oreschi, dopo capiremo anche perché gli americani a Roma come musica elettronica viva, altri che appunto facevano della composizione istantanea una delle materie più innovative, più scottanti e più incredibilmente poi futuribili rispetto alle musiche per come si svilupperanno. Ovviamente stiamo parlando di musiche sperimentali che però appunto poi vanno a solcare anche terreni che arriveranno e sentirete insomma verso la fine, anche terreni appunto piuttosto conosciuti, forse un gruppo che è veramente conosciuto da tutti, che però è partito magari proprio da queste sperimentazioni legate all'improvvisazione radicale, che il gruppo di Nuova Consonanza, lo andiamo proprio a sentire con Improvvisazione, che tra l'altro dà il titolo questa sera alla trasmissione appunto di 451, Frammenti sonori in mia compagnia, per iniziare quindi la Nuova Consonanza romana, per aprire questo viaggio dentro l'improvvisazione che poi sfocerà appunto in un altrove cosmicheggiante. Travisato attualmente schiocca la realtà storica, giustissimo. Gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, che abbiamo ascoltato appunto da Improvvisazione, tra l'altro non a caso, perché il disco viene prodotto dalla Deutsche Grammophon, quindi una delle etichette della musica, insomma, del Novecento, tra le più importanti, e riescono appunto gruppe, anzi Nuova Consonanza, perché appunto viene anche germanizzato appunto il nome di gruppo di Nuova Consonanza, Improvvisazione appunto il titolo dell'album, e con questo credo forma quello che poi diventerà di fatto sia il sorta di collage musicale elettronico, tra l'altro tutto quello che è curato elettronicamente è stato curato dentro in questo pezzo, credo, che appunto abbiamo ascoltato, dal Laboratorio Elettronico di Musica Sperimentale di Roma, dove appunto c'erano sorte di creature quasi mostruose rispetto invece allo studio fonologico, quello famoso, insomma, legato a Luciano Berio, più senza togliere niente a livello di sperimentazione a quello che fece lo studio fonologico, quello che fece Luciano Berio e Bruno Maderna, intendiamoci, però qua insomma si partiva veramente da una situazione anche molto improvvisata, anche nel vero senso della parola, cioè con veramente mezzi anche piuttosto poveri. Se lì nello studio fonologico c'era appunto la RAI di mezzo, quindi insomma facendo anche piuttosto finanziata, ecco, qua invece sicuramente la faccenda era più legata, ecco, a veramente una sorta anche di eroismo, potremmo dire, quindi anche proprio d'accatto. Prima parlavo di Domenico Guaccero o Guacero, insomma, questa sera qua faremo un po' di giochino appunto, l'accento appunto spostato da una parte o dall'altra, comunque sia, insomma, la grande misconosciutissimo sorta di inventore Domenico, appunto, chiamiamolo Guaccero, insomma, per semplicità, e inventerà di fatto, insomma, una sorta di proprio studio laboratoriale di quello che poteva essere dell'elettronica, l'utilizzo dell'elettronica, che come abbiamo sentito prende forme veramente decisamente nuove per stiamo parlando del 68, perlomeno l'uscita, i lavori furono curati circa, insomma, l'anno prima, e poi registrati e sono arrivati appunto nella forma disco appunto un anno dopo. E qua si provava e si sperimentava sia con l'elettronica in termini di in questo caso produzione immediata, nel senso che appunto la composizione era sviluppata dai musicisti contemporaneamente, veniva sviluppata proprio come forma appunto sia di partecipazione appunto compositiva, sia in termini di esecuzione della stessa cosa non scritto oppure scritta in maniera diversa. Questo poi è l'eccezionalità dell'improvvisazione radicale e di appunto formazioni come Gruppo di Nuova Consonanza. Per quanto riguarda questo pezzo c'era poi un lavoro anche di post produzione, appunto anche l'idea che, partendo da quello che è una sorta anche di collage, abbiamo sentito anche, e quindi anche un gioco sulla lingua, poi si potesse rimaneggiare, si potesse rimodellare e rimodulare a piacimento, ma soprattutto con un'idea, insomma, di musica appunto futuribile. In questo senso un Gruppo di Nuova Consonanza fu veramente magistrale, come lo fu un altro gruppo romano, prima accennavo agli Americani a Roma, Musica Elettronica Viva, una delle esperienze insieme a Nuova Consonanza tra le più importanti del dopoguerra, per quanto riguarda le musiche nuove, la nuova musica, come venne chiamata dalla Cramps qualche anno dopo, come appunto etichetta e sottoetichetta dedicata alle musiche contemporanee, ma anche a queste musiche, e tra l'altro appunto arrivarono anche a stampare il loro commiato meraviglioso, Musica su Schemi, proprio un Gruppo di Nuova Consonanza, proprio stampando l'ultimo disco come appunto Cramps, Nuova Musica. Nuova Musica di fatto lo era, Musica Elettronica Viva, soprattutto ricordata per Alvin Karren, ma non solo Tate Albaun, geniale, Reschi, che appunto passò anche dentro il gruppo di Franco Evangelisti, Ennio Morricone, Bertoncini, eccetera, e, con collaborazioni che comunque erano di una Roma underground che stava veramente inventando un linguaggio nuovo, un modo di concepire, gestire e anche di vivere poi di fatto la musica, musica elettronica viva. Non è un caso che si chiami in questa maniera. Un altro dei grandi e meravigliosi laboratori eccezionali di quel periodo storico, con tanto appunto di partecipazione collettiva, andiamo proprio a trovare i MEV di Soundpool, quando addirittura c'era l'invito dentro queste stanze anche piuttosto malconce, questa sorta di post tribolo che è ricavato da ex fabbrica dove appunto a MEV negli anni 60 si trovava. Beh, furono invitati anche non musicisti, vari non musicisti, proprio per elaborare qualcosa che fosse anche diverso appunto rispetto anche alla tara musicale che comunque si aveva. E poi un personaggio assolutamente eccezionale, faceva di riferimento sia per gruppo di nuova consonanza che per musica elettronica viva, che fu un grande outsider irregolare come Giacinto Scelsi, che appunto già qualche anno prima aveva dato segni di inquietudine in questo senso, e poi soprattutto servirà da ulteriore connubio poi con le musiche veramente che partono per andare verso il cosmo e verso mondi veramente anche molto lontani. Citando un altro che vabbè, è un'altra storia, però questa è quella degli anni 70, anche se qualcosina forse anche lui deve a questo periodo, visto che Gianni Sassi, che produsse appunto il primo Franco Battiato, sicuramente si è formato anche attraverso queste eccezionali vie che aprirono veramente mille strade. Musica elettronica viva, per l'appunto. Beh, come dire, l'idea musicale di fare musica appunto insieme, musica in questo caso elettronica viva, è assolutamente viva, vitale, e fu uno dei grandi progetti, tra le più utopie avverate in realtà, perché le musiche poi insieme sono state fatte sul serio da musica elettronica viva. Qua c'erano veramente tanti non musicisti, tanti che partecipavano soltanto, tra virgolette, quel soltanto alla vita collettiva appunto di Alvin Karn, Richard Teitelbaum, Frederic Roeschi, Alan Briant, poi vari personaggi si sono aggiunti, anche uno storico, un punto di riferimento, ecco qua sì, del jazz improvvisativo, ovvero Steve Lacy, che parteciperà a tante scorribande sonore anche appunto con la musica elettronica viva. Ma d'altronde anche, tanto per complicare un po' le cose, ma poi di fatto non sono complicate, perché basta insomma ascoltare le cose per poi, è chiaro, avere un approccio anche critico, e quindi andasse anche a cercare quelle che sono poi i percorsi, cose che tra l'altro vengono anche molto spiegate, oltre che fatte appunto sia da gruppo di nuova consonanza che da musica elettronica viva, cioè ovvero come dicevo prima, quasi complicare le cose anche dentro il gruppo di nuova consonanza. Ad esempio Schiaffini veniva dall'ambiente del free, quindi dall'ambiente del jazz improvvisativo, che però appunto era un'altra storia rispetto poi alle musiche creative di stampo più contemporaneo. Però anche qua la contemporanea è vista in un altro senso, è quasi una sorta di avvenimento di grande poi sollevazione, insomma di un underground che veniva proprio lì, da lì a pochissimo a nascere e a sviluppare anche dei figli che sembrerebbero quasi paradossalmente lontanissimi, che invece in realtà sono vicinissimi anche in termini temporali. Se pensiamo che tante di queste musiche hanno informato formazioni come Velvet Underground, da dove tra l'altro dove suonava John Cale, che veniva dalla Monte Young, da John Cage, e quanta influenza ha avuto John Cage dentro al New Wave, ad esempio anche di questa città di Bologna, quando venne qua, fece il treno che attraversava parte dell'Emilia e informò poi di fatto vari giovinastri punk. E qua veramente, altro che accademia, ma stiamo parlando di punk, crearono musiche appunto non potendosele permettere sulla carta, cioè non sono musicista, non sono musicista colto, non sono musicista d'avanguardia, faccio avanguardia, sono un punk e mi metto a fare questa cosa che qualcuno mi dice che non potrei fare, e invece sono nate cose assolutamente geniali da questo, e tutte le faccende legate al rock in opposition, quindi a un modo di suonare che prendeva tantissimo dall'improvvisazione radicale, se pensiamo appunto ai primi Soft Machine, alle psichedelie quindi che venivano da lì a nascere, ma perché no, i Floyd di Interstellar Overdrive dal vivo, che dilatavano a dismisura il pezzo e di fatto prendevano le mosse da gruppi come appunto Nuova Consonanza, da musica elettronica viva, e perché no, da loro proprio connazionali, M, anch'essa storica e eccezionale sì, formazione, che ha sviluppato anch'essa insieme a Nuova Consonanza e a Mev quel linguaggio eccezionale che proveniva proprio dal comporre e collettivamente. Poi la formazione nasce anche qua da musicisti comunque con una formazione legata soprattutto a Darmstadt, ma poi appunto si allargherà in maniera incredibile. Sound Pool appena ascoltato di musica elettronica viva veramente richiamava e chiamava a suonare non musicisti, ma non nel concetto poi di Ino, di quello che poi si svilupperà come non musicista anche in termini concettuali, ma proprio gente che era soltanto interessata a vivere appunto musiche insieme ad altri, e a vivere e poi momenti appunto collettivi più generali. E Cornelius Cardio, in questo senso un faro delle musiche improvvisative della fine degli anni 70 in quella Inghilterra, fu veramente molto non studiato, perché non si trattava neanche di studiare, fu proprio come dire attraversato a livello di linguaggio, ma anche proprio si potrebbe dire come spazio anche fisico creato appunto da Cornelius Cardio, se pensiamo anche oltre a MMM, se vogliamo dirlo all'inglese, a Scratch Opera, dove si creava anche lo spazio dove suonare, e con inserzioni musicali che venivano dal mondo dell'infanzia, ad esempio, quindi creare anche momenti assolutamente inediti e non trascrivibili immediatamente a livello musicale. I bambini possono essere informati della musica, ma lui non voleva far questo, e sviluppò appunto quello che è l'improvvisazione di fatto del bambino, che giocando appunto improvvisa in questo senso in termini musicali. AMM poi, insieme a Kate Rowe, Lou Gehr, al batterista Eddie Prevost, ebbe insomma vicissitudini piuttosto insomma ingarbugliate con Cardio, addirittura, tanto per fare anche così, non quadrare il cerchio, perché nell'impossibilità e anche nel non volontà di far quadrare il cerchio, addirittura con il Cardio si radicalizzò talmente tanto da abbandonare anche addirittura l'improvvisazione vista come implicitamente musica reazionaria. Fu un periodo piuttosto particolare per Cornelius Cardio, che addirittura pubblicò un libello famoso più per il titolo e per la provocazione, più per quello che c'è scritto, ovvero Stockhausen, servo dell'imperialismo, per dirvi a che punto poi si arrivò anche in termini di scontro. Si aprì talmente tanto il discorso che si arrivò anche a forme di paradosso, a sorte anche volendo anche involuzioni, se vogliamo chiamarle in questa maniera, anche se poi le musiche di Cardio anche dell'ultimo periodo, quindi del periodo così popolare, diciamo, quando andava a musicare direttamente dentro le manifestazioni, nelle piazze, musiche appunto dirette per il popolo, senza quindi questo discorso della sperimentazione, in realtà si sente da dove viene Cardio, e si sente anche proprio un modo di intendere le cose che non è mai appunto semplicemente così reso appunto popolare, come d'altronde buona parte anche delle musiche si svilupparono sviluppando ulteriormente quello che era già stava già avvenendo nella riscrittura delle musiche popolari attraverso appunto l'improvvisazione. Questo ulteriore capitolo di futuro di 451 frammenti sonori, comunque attraversato poi per molti aspetti in puntate insomma precedenti. Rimanendo appunto su AMM, disco eccezionale, Live Electronic Music Improvised, anzi lo dico in inglese, dove appunto si sviluppa questo linguaggio che va anche a cogliere tanto di quello che sarà una libertà espressiva che approderà anche a un noise, e perché no anche in momenti estatici, non è soltanto insomma faccenda di noise brutale, ma anche di faccenda escapista, se vogliamo, o comunque di un qualcosa che si stava di fatto creando come un altrove, una alternativa, addirittura proprio la creazione appunto dell'altro che sperimentarono sia musicalmente che poi collettivamente AMM, come appunto soprattutto musica elettronica viva, e anche se con un'estetica molto diversa, anche perché no, gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza appunto.